Somos rebeldes para la justicia, nuestra palabra es libertad. La lucha sigue en la revuelta, el trabajador vencerá. Notti che durano secoli interi, tirano il tempo, tiranno il re. Il popolo ha fame di pane e lavoro, queremo strabaco, queremo scoper. Cala la mano del vecchio potere, l'ombra si abbatte sulle città. Il sangue versato dai nostri compagni diventa vessillo che si innalzerà. Libertad, la lucha sigue en la revuelta, el trabajador vencerá.